La mamma si sedette accanto al mio letto. Aveva preso François Le Champy, cui la copertina rossastra e il titolo incomprensibile conferivano ai miei occhi una personalità distinta e un'attrattiva misteriosa. Non avevo ancora mai letto un vero romanzo. Avevo sentito dire che George Sand era l'archetipo del romanziere. Questo mi disponeva già ad immaginare in François Le Champy qualcosa di indefinibile e di delizioso. I procedimenti narrativi intesi a provocare la curiosità o la commozione, certi modi di dire che destano l'inquietudine o la malinconia e che un lettore un po' istruito riconosce comuni a molti romanzi, mi sembravano semplicemente, a me che consideravo un libro nuovo non come una cosa simile a molte altre, ma come una persona unica che ha in se stessa la sola ragione di esistere, un'inquietante emanazione dell'essenza specifica di François Le Champy. Sotto quegli avvenimenti così quotidiani, quelle cose così comuni, quelle parole così correnti, percepivo, sentivo come un'intonazione, un'accentazione strana. Si avviò l'azione. Mi parve tanto più oscura perché a quell'epoca, quando leggevo per pagine intere, mi mettevo a fantasticare su tutt'altra cosa. E alle lacune che quella distrazione apriva nel racconto, si aggiungeva, quando era la mamma a leggere per me a voce alta, il fatto che ometteva tutte le scene d'amore. Anche tutti i bizzarri cambiamenti che si producono nel comportamento rispettivo della mugnaia e del ragazzo e che non trovavano spiegazione se non nel progredire di un amore nascente, mi sembravano improntati a un profondo mistero, la cui origine mi piaceva immaginare che dovesse essere in quel nome mai sentito e così dolce di Champy, che conferiva al ragazzo che lo portava, senza che ne sapessi il perché, il suo colore vivo, purpureo e incantevole. Se mia madre era una lettrice infedele, era anche per le opere in cui trovava l'accento di un sentimento vero, una lettrice mirabile per il rispetto e la semplicità dell'interpretazione, per la bellezza e la dolcezza del suono. Anche nella vita, quando erano persone e non opere d'arte a destare così la sua commozione o la sua ammirazione, era toccante vedere con quale riguardo escludeva dalla propria voce, dai gesti, dalle parole, quello scatto di allegria che avrebbe potuto far male alla madre che avesse in altro tempo perso il suo bimbo, quell'accenno a una festa, a un anniversario che avrebbe potuto indurre una persona anziana a riflettere sulla sua età avanzata, quel dettaglio di vita domestica che avrebbe potuto infastidire il giovane studioso. Allo stesso modo, quando leggeva la prosa di George Sand, che emana sempre quella bontà e quella distinzione morale che la mamma aveva appreso dalla nonna a considerare superiori a tutto nella vita, e che solo molto più tardi io avrei dovuto insegnarle a non stimare ugualmente superiori a tutto nei libri, attenta a bandire dalla sua voce ogni leziosità, ogni affettazione che potesse impedirle di riceverne il flusso potente, lei infondeva tutta la naturale tenerezza, tutta l'ampia dolcezza con cui richiedevano d'essere pronunciate quelle frasi, che sembravano scritte per la sua voce e che in certo qual modo rientravano interamente nel registro della sua sensibilità. Sapeva ritrovare, per affrontarle col tono giusto, l'accento cordiale che preesiste ad esse e le detta, ma che le parole non indicano. Grazie a questo attenuava di passaggio ogni crudezza nei tempi verbali, dava all'imperfetto e al passato remoto la dolcezza che è insita nella bontà, la malinconia che c'è nella tenerezza. Guidava la frase che finiva verso quella che stava per cominciare, a volte affrettando, a volte rallentando il procedere delle sillabe per farle rientrare, benché fossero di diverse quantità, in un ritmo uniforme, e insufflava in quella prosa così comune una specie di vita sentimentale e continua. I miei rimorsi si erano placati. Mi lasciavo andare alla dolcezza di quella notte in cui avevo la mamma accanto a me. Sapevo che una notte come quella non avrebbe potuto ripetersi, che il più grande desiderio che avessi al mondo, avere la mamma in camera mia durante quelle tristi ore notturne, Era troppo in contrasto con le necessità della vita e i desideri di tutti, affinché la sua realizzazione, che mi era stata accordata quella sera, non potesse essere altro che fittizia ed eccezionale. Domani le mie angosce sarebbero riprese e la mamma non sarebbe stata più là. Ma quando le mie angosce si placavano, io non le comprendevo più. Poi la sera del giorno dopo era ancora lontana. Mi dicevo che avrei avuto il tempo di prendere una decisione, anche se quel tempo non avrebbe potuto darmi alcun potere in più, poiché si trattava di cose che non dipendevano dalla mia volontà e che solo l'intervallo che ancora le separava da me le faceva apparire più facili da evitare. Così, per molto tempo, quando, svegliandomi di notte, mi tornava in mente Combré, non ne rividi mai che quella sorta di lembo luminoso, ritagliato sullo sfondo di tenebre indistinte, simile a quelle che la vampa di un fuoco di Bengala o un proiettore elettrico rischiarano e isolano in un edificio di cui le altre parti restino immerse nella notte. Alla base, abbastanza ampia, il salottino, la sala da pranzo, l'inizio del viale immerso nell'oscurità, dal quale sarebbe comparso Swan, l'autore inconsapevole delle mie tristezze, il vestibolo da cui mi incamminavo verso il primo gradino della scala, così crudele da salire, che da sola costituiva il tronco molto stretto di quella piramide irregolare, e in cima la mia camera da letto con il piccolo corridoio dalla porta vetri da cui entrava la mamma. In una parola, sempre visto alla stessa ora, isolato da tutto ciò che poteva esserci intorno, stagliandosi solo nell'oscurità, lo scenario strettamente indispensabile al dramma di spogliarmi, come quello che si vede indicato in apertura delle vecchie commedie per le recite in provincia. Come se Combré non fosse consistita che in quei due piani collegati da una stretta scala, e come se non fossero mai state altro che le 7 di sera. A dire il vero, avrei potuto rispondere a chi me l'avesse chiesto che Combré comprendeva anche altre cose ed esisteva anche in altre ore, ma poiché quello che avrei ricordato mi sarebbe stato offerto solo dalla memoria volontaria, la memoria dell'intelligenza, e poiché le informazioni che questa ci fornisce sul passato non ne conservano nulla, non mi sarebbe mai venuto voglia di pensare a quel resto di Combré. Tutto questo in realtà era morto per me. Morto per sempre? Forse. Il caso ha molta parte in tutto questo. E un secondo caso, quello della nostra morte, spesso non ci permette di attendere a lungo i favori del primo. Trovo molto ragionevole la credenza celtica secondo cui le anime di coloro che abbiamo perduto sono prigioniere in qualche essere inferiore, un animale, un vegetale, una cosa inanimata, di fatto perdute per noi fino al giorno, che per molti non giunge mai, in cui ci troviamo a passare accanto all'albero o a entrare in possesso dell'oggetto che è la loro prigione. Allora quelle anime trasaliscono, ci chiamano, e non appena le abbiamo riconosciute, l'incantesimo è spezzato. Liberate da noi, hanno vinto la morte e ritornano a vivere con noi. Così è del nostro passato. Cercare di evocarlo è fatica sprecata. Tutti gli sforzi della nostra intelligenza sono vani. È nascosto fuori del suo dominio e della sua portata, in qualche oggetto materiale insospettato, nella sensazione che questo ci darebbe. Dipende dal caso che noi si incontri quell'oggetto prima di morire o non lo si incontri. Già da molti anni, tutto ciò che di Combré non fosse il teatro e il dramma del mio andare a letto aveva cessato di esistere per me, quando un giorno d'inverno, rientrando a casa, mia madre, vedendomi infreddolito, mi propose di prendere, contro la mia abitudine, una tazza di tè. Lì per lì rifiutai, poi non so perché cambiai idea. Mandò a prendere uno di quei dolcetti corti e paffuti chiamati Petite Madeleine, che sembrano modellati nella valva scanalata di una conchiglia a Saint-Jacques, e subito, meccanicamente, prostrato dalla giornata uggiosa e dalla prospettiva di un domani triste, mi portai alle labbra un cucchiaino di tè dove avevo inzuppato un pezzetto di Madeleine. Ma nel momento stesso che quel sorso di tè, misto a qualche briciola del dolce, toccava il mio palato, trasalii, attratto da qualcosa di straordinario che accadeva dentro di me. Mi aveva invaso un piacere delizioso, isolato, senza che ne sapessi la causa. Di colpo mi aveva reso indifferenti le vicende della vita, inoffensivi i suoi disastri, illusoria la sua brevità, esattamente come agisce l'amore, colmandomi di un'essenza preziosa. O meglio, quell'essenza non era in me, ero io quell'essenza. Avevo cessato di sentirmi mediocre, contingente, mortale. Da dove poteva venirmi quella gioia possente? Avvertivo che era legata al sapore del tè e del dolce, ma lo superava infinitamente, non doveva essere della stessa natura. Da dove veniva? Che cosa significava? Dove afferrarla? Bevo un secondo sorso, ma non vi trovo niente di più che nel primo. Un terzo mi dà un po' meno del secondo. È ora che mi fermi. La virtù della bevanda sembra svanire. È chiaro che la verità che cerco non è in quella, ma in me. L'ha risvegliata, ma non la conosce, e non può che ripetere indefinitamente, con sempre minor forza, quella stessa testimonianza che io non so interpretare e che voglio almeno poterle chiedere di nuovo e ritrovare intatta a mia disposizione, tra poco, per una chiarificazione decisiva. Poso la tazza e mi rivolgo alla mia mente. È compito suo trovare la verità. Ma come? Grave incertezza tutte le volte che la mente si sente superata da se stessa, quando lei, la ricercatrice, è al tempo stesso il paese oscuro dove deve cercare e dove tutto il suo bagaglio non le servirà a nulla. Cercare, non solo, creare. Eccola di fronte a qualcosa che non esiste ancora e che lei sola può rendere reale e poi far entrare entro il suo raggio di luce. E ricomincio a domandarmi quale potesse essere quello stato sconosciuto che non adduceva alcuna prova logica, ma solo l'evidenza della sua felicità, della sua realtà, davanti alla quale le altre svanivano. Voglio tentare di farlo riapparire. Vado indietro col pensiero al momento in cui ho bevuto il primo sorso di tè. Ritrovo lo stesso stato, senza una nuova luce. Chiedo alla mia mente ancora uno sforzo di richiamare ancora una volta la sensazione che sfugge. E perché nulla freni lo slancio con cui tenterà di riafferrarla, elimino ogni ostacolo, ogni idea estranea, metto al riparo le mie orecchie e la mia attenzione dai rumori della stanza accanto. Ma sentendo la mia mente affaticarsi senza successo, la costringo invece a concedersi quella distrazione che le rifiutavo, a pensare ad altro, a riprendersi prima di un ultimo supremo tentativo. Poi, una seconda volta, creo il vuoto intorno a lei. Di nuovo le metto di fronte il sapore ancora recente di quel primo sorso e sento trasalire dentro di me qualcosa che si sposta, vorrebbe emergere, qualcosa che si direbbe disancorato a una grande profondità. Non so cosa sia, ma sale lentamente. Avverto la resistenza, sento il rumore delle distanze che attraversa. Certo, a palpitare così in fondo al mio essere deve essere l'immagine, il ricordo visivo che, legato a quel sapore, tenta di seguirlo fino a me. Ma si dibatte troppo lontano, troppo confusamente. A malapena percepisco il riflesso neutro in cui si confonde l'inafferrabile turbinio dei colori rimossi. Ma non riesco a distinguere la forma, a chiederle come al solo interprete possibile di tradurmi la testimonianza del suo contemporaneo, del suo inseparabile compagno, il sapore, a chiederle di rivelarmi di quale circostanza particolare, di quale epoca del passato si tratti. Arriverà fino alla superficie della mia chiara coscienza quel ricordo? L'istante remoto che l'attrazione di un identico istante è venuta da così lontano a sollecitare, smuovere, sollevare dal profondo di me stesso. Non so. Ora non sento più nulla. Si è fermato, ridisceso forse. Chissà se risalirà mai dalla sua notte. 10 volte dovetti ricominciare, chinarmi su di lui. E ogni volta la viltà che ci distoglie da ogni compito difficile, da ogni impresa importante, mi ha consigliato di lasciar perdere, di bere il mio tè pensando semplicemente ai miei fastidi di oggi, ai miei desideri di domani, che si lasciano rimuginare senza fatica. E d'improvviso il ricordo mi è apparso, quel sapore, Era quello del pezzetto di Madeleine che la zia Léonie la domenica mattina a Cambrai, perché quel giorno non uscivo mai prima dell'ora della messa, mi offriva dopo averlo inzuppato nel suo infuso di tè o di tiglio quando andavo a darle il buongiorno in camera sua. La vista della piccola Madeleine non mi aveva ricordato niente prima di assaggiarla. Forse perché, avendone viste spesso in seguito senza mangiarne sui ripiani delle pasticcerie, la loro immagine aveva lasciato quei giorni di Combray per legarsi ad altri più recenti. O forse perché di quei ricordi così a lungo abbandonati fuori della memoria non sopravviveva nulla, tutto si era disgregato. Le forme. E anche quella della piccola conchiglia di pasticceria, così profumatamente sensuale sotto la sua pieghettatura severa e devota, si erano dileguate o assopite, avevano perduto la forza espansiva che avrebbe permesso loro di raggiungere la coscienza. Ma quando di un antico passato non resta più nulla, dopo la morte degli esseri, dopo la distruzione delle cose, soli più fragili ma più vividi, più immateriali, più persistenti, più fedeli, l'odore e il sapore restano ancora a lungo come anime a ricordare, ad attendere, a sperare sulla rovina di tutto il resto, a sorreggere senza piegarsi sulla loro quasi impalpabile stilla l'immenso edificio del ricordo. E appena ebbi riconosciuto il sapore del pezzetto di Madeleine, inzuppato nel tiglio che mi offriva la zia, benché non sapesse ancora dovesse rimandare a molto più tardi la scoperta del motivo per cui quel ricordo mi rendesse tanto felice, subito la vecchia casa grigia sulla strada dove era la sua stanza, come una scena teatrale, venne a sovrapporsi al piccolo padiglione che dava sul giardino, costruito sul retro per i miei genitori, quell'unico lato tronco che avevo rivisto fino allora. E insieme alla casa, la città, la piazza dove mi mandavano prima di pranzo, le vie dove andavo a fare commissioni dopo pranzo e fino a sera con qualsiasi tempo, i sentieri che prendevamo quando il tempo era bello. E come in quel gioco in cui i giapponesi si divertono a immergere in una ciotola di porcellana piena d'acqua dei pezzetti di carta fino a quel momento indistinti ma che appena immersi si distendono, si attorcigliano, si colorano, si differenziano, diventano fiori, case, figure umane consistenti e riconoscibili, così ora tutti i fiori del nostro giardino e quelli del parco di Swan e le ninfee della Vivonne e la brava gente del villaggio e le loro piccole abitazioni e la chiesa e tutta Combray e i suoi dintorni, tutto quello che va prendendo forma e consistenza è uscito, città e giardini, dalla mia tazza di tè.